Cari ascoltatori, Pietro Pancamo ritorna per presentarvi questa volta Giorgio Micheli, un talentuoso artista di Trieste, al quale cedo subito la parola. Un caro saluto, amici di Radio Big World. Mi chiamo Giorgio Micheli. Sono nato a Trieste nel 1959, dove vivo tuttora. Sin da ragazzo ho avvertito una forte attrazione per la musica, alla quale ho dedicato 40 anni di dedizione attraverso lo studio del flauto traverso, del sassofono e del canto lirico. Ho suonato in svariate formazioni musicali, compresa l'orchestra del Teatro Giuseppe Verdi di Trieste. Dal 1986 svolgo l'attività di educatore nel campo della disabilità psichica. 7 anni fa, grazie alla frequentazione dell'Associazione Poesia e Solidarietà, mi sono avvicinato alla poesia, trovando nei versi conforto e desiderio di esprimermi. Nel 2011 pubblico la mia prima silloge, I peschi in fiore, per Aletti Editore. Questa esperienza mi gratifica e decido di cimentarmi con la narrativa. Nel 2013 esce Un vuoto incolmabile, per Talos Edizioni, romanzo breve che si svolge nella mia amata città. In una Trieste disincantata, durante le feste natalizie, si svolge la delicata storia d'amore tra Giovanni, trombettista del teatro cittadino, e della bella e giovane Silvia, collega violinista originaria di Varsavia. La paura dell'ormai cinquantenne ad abbandonarsi all'amore lo porterà ad una riflessione interiore tra passato e un incerto futuro. L'incontro con la non vedente Anna, il 31 di dicembre, darà una svolta alla sua vita. Dietro l'angolo, però, una temibile insidia potrebbe distruggere la sua ritrovata felicità. Il libro è stato presentato in prima nazionale a Firenze. Sempre nello stesso anno e per lo stesso editore esce 7 secondi, romanzo che racconta una storia dei risvolti malinconici, profusa però da quella gioia di vivere che cela e in qualche modo tende a preservare la sofferenza interiore della protagonista Alice, che affronta con forza i momenti più duri della sua vita di ragazza ventenne. I temi chiave affrontati nel libro, come la libertà di scelta, l'aborto, il sesso, sono analizzati dal punto di vista principalmente femminile, ma mostrando anche quello maschile. La giovane Alice cerca inizialmente di rifiutare il suo destino, ma da adulta si trova a rivivere la stessa situazione e capisce di non poter fuggire dall'inevitabilità del destino. Nel 2014 segue un altro romanzo etico e fortemente attuale, come il tema dell'integrazione razziale. Il vecchio E. Celestin, dopo aborto e invalidità, scrivo di migrazione, di convivenza fra esseri umani diversi tra loro, di tolleranza e amore verso il prossimo. La storia narra l'amicizia tra un vecchio alcolizzato e una bambina di origini africane. Nel 2015 presento al Salone Internazionale del Libro di Torino Odore di Salsedine. La storia inizia nell'anno 2040 a Trieste, in un letto d'ospedale. Emma, morente a causa di un tumore ai polmoni, sa di avere poco tempo. Attraverso i suoi ricordi va a ritroso nel tempo e ricorda se stessa bambina, orfana di madre, affrontare l'adolescenza come la stragrande maggioranza dei suoi coetanei, fino ad arrivare all'amicizia con Paola, che si trasformerà in una inaspettata storia d'amore. Con il raggiungimento della maturità, la donna diventerà poeta per respirare meglio la vita. All'interno del romanzo si trovano diverse poesie da me scritte. Emma, in età matura, vivrà un'esperienza di premorte che le cambierà la vita, ma non avrà da subito la certezza dell'esistenza confortante di un al di là. Con questo libro ho ricevuto il primo premio nella sezione Talos Edizioni del secondo concorso nazionale Eccellenze. In collaborazione con l'amica critica letteraria, poeta e scrittrice Graziella Azzori, pubblico nel 2016 la silloge poetica Senso d'amore sparso, per Nulla Die Edizioni, dove due sensibilità profondamente diverse si integrano in un armonico disegno stilistico e ideale che porta il lettore ad approcciarsi in modo del tutto originale al Tantra Yoga attraverso la scoperta dei chakra, i punti energetici corrispondenti a zone corporee rappresentate dai fiori di loto di differente numero di petali. A conclusione, in questi giorni, è uscita la mia ultima fatica letteraria, Metatron, l'angelo dell'armonia, vizi e virtù sul proscenio dell'anima, edizioni Nulla Die. 14 racconti ispirati ai 7 vizi e alle 7 virtù, storie moderne, laiche, che mettono a nudo, senza giudicare, le personalità umane, guidando il lettore a immedesimarsi nella narrazione con ritmo e pathos. Metatron, l'arcangelo dell'armonia, è uno dei serafini, gli ardenti, il più vicino al trono di Dio. Il suo nome significa infatti colui che sta presso il trono. Nella Bibbia lo troviamo in Esodo 14,1. È l'angelo di Dio che opera la traversata del Mar Rosso, ma è anche l'angelo che ferma la mano di Abramo prima del sacrificio di Isacco. Il nome è affine al latino metator, il misuratore. Metatron concilia i desideri con la ragione, pesa le anime, ispira le profezie, il retto agire, insegna a distinguere il bene dal male. Corrisponde al dio egiziano Ermete e al greco Hermes, Mercurio per i romani. Dio della scrittura, conserva i principi della vita e le nostre azioni negli archivi di Metatron. Anche questi racconti, dedicati a vizi e virtù, 7 più 7, secondo la tradizione cristiana, sono, lo spero, un'ispirazione dell'angelo. La metafora rimanda alla coscienza in noi, alla sua voce profonda, la stessa che guidava Socrate. Nei nostri tempi difficili la sua voce è flebile. Ho cercato di ascoltarla, traducendola nel nostro linguaggio usuale, osservando il panorama della cronaca quotidiana, rimeditata dall'interno. La prefazione è a cura del poeta, scrittore e presidente del PEN Trieste Antonio Della Rocca, la postfazione a cura invece del poeta triestino drammaturgo Claudio Grisancic. Inoltre, da 3 anni conduco la trasmissione a carattere letterario City Legge, in onda via web su www.radiocitytrieste.it. Subito dopo l'intermezzo musicale, che sta per andare in onda, vi leggerò il racconto Lacidia, tratto da Il settimo vizio, secondo la cultura cristiana. A tra poco, amici. La possente scogliera dominava il mare. I gabbiani volavano alti, sfruttando prima la maestosa distesa d'acqua, quindi lo stormo. Dovevano essere veloci nella battaglia giornaliera per il cibo. I più scaltri ed esperti individuavano i banchi di pesce e si gettavano sicuri tra le onde per uscire orgogliosi con una preda guizzante tra il becco. La natura dettava le sue regole, tutto rispondeva alle sue leggi con un respiro corale. Il sole sorgeva a dare energia al nuovo giorno. L'erba verde e rigogliosa era scossa da un vento freddo, considerata la stagione estiva. Le capre locali brucavano impavide quel ben di Dio. Avrebbero dato buon latte, saporito e con esso ottimi formaggi. Il panorama da Lubenizia appariva grandioso. Michele raggiungeva spesso il borgo di mattina presto. Amava il fruscio dell'erba, la vista del mare che secondo i refoli cambiava colore, passando dal blu scuro a un azzurro intenso. Ascoltava il silenzio del piccolo paese, abitato ormai da un pugno di vecchi, disturbato ogni tanto dal canto di un gallo o dal belato delle capre ingorde. Lubenice si trova sull'isola di Cherso in Croazia, meta ambita dai turisti per le vacanze estive. Si era alzato di buon'ora quella mattina per godersi in solitudine lo spettacolo sul Quarnero. La contemplazione della natura era l'unico stimolo capace di farlo alzare all'alba, prendere la macchina per dirigersi verso Lubenice dal paese di Ossero, dove abitava. Intraprendeva il viaggio un paio di volte al mese. Quella visione lo avvicinava a tal punto alla maestosa bellezza della natura da farlo sentire felicemente vivo. Il resto dei giorni li avrebbe trascorsi nell'indolenza, nel dolce far niente. Nato a Trieste, Michele aveva scelto la casa al mare di Ossero, proprietà dei genitori e un tempo meta estiva della famiglia come sua residenza primaria. Restava iscritto alla facoltà di lettere e filosofia nell'Ateneo Giuliano, studente ormai fuori corso con i suoi 28 anni di noia. Una delusione amorosa lo aveva fatto sprofondare in una cupa depressione. In seguito a ciò aveva abbandonato la città, isolandosi nel paese croato in una fredda giornata di gennaio, senza più il desiderio o la forza di ritornare nel luogo del dolore. I genitori, facoltosi, lo mantenevano in quell'ignavia per paura che tentasse nuovamente l'insano gesto del suicidio, un'esperienza da lui compiuta in un momento di buio interiore. Erano disposti a concedergli qualsiasi cosa pur di saperlo vivo. Il sole, più alto, cominciava a scaldare la pelle del giovane. Michele bussò alla porta della prima casa del paese e attese paziente. Una vecchietta, con un fazzoletto nero in testa, aprì la porta. Sembrava uscita da una cartolina di 100 anni prima. Lui non entrò, salutò con il capo e attese ancora. Poco dopo, la vecchietta uscì con una bottiglia di olio d'oliva di produzione propria e gliela porse. Michele pagò con 50 cune, salutò e si diresse verso la macchina. La strada statale brulicava di un continuo viavai di macchine, roulot e camper. Il vaporetto d'estate lavorava a pieno ritmo per trasformare i veicoli come i turisti affamati di sole, mare, isole e coste croate. La radio gli tenne compagnia fino a Ossero. Rientrato, volle assaggiare subito l'olio, prese del pane raffermo e lo affettò. Togliò una mozzarella, preparando gustose tartine imbevute dal prezioso olio. Placò la fame mattutina e mentre il paese prendeva lentamente vita, si coricò per riprendersi dalla levataccia. Più tardi, un vocio di donne anziane, cadenzato nel dialetto istro-veneto, lo svegliò. Alzatosi, ritemprato, si nutrì ancora con pane e olio e subito dopo decise di fare un giro in barca. La pilotina di papà era sufficiente per navigare nei pressi della costa. Aveva una minuscola cucina e una stanza da letto. Avrebbe navigato a vista, svogliatamente, verso la sua spiaggia naturista preferita. Trascorse il resto della giornata sulla spiaggia, a bagnarsi nell'acqua cristallina. Osservava il movimento composto dei turisti, erano soprattutto tedeschi e italiani. li vide bearsi al sole, senza inibizioni, desiderosi di ottenere la sospirata tintarella da sfoggiare al ritorno nel proprio paese. I tedeschi raggiungevano al massimo un colorito della pelle rosso peperone, che noi italiani avremmo chiamato scottatura. Essi invece si abbandonavano a quell'orgia solare stoicamente. Michele notò tra loro una ragazza così bionda che i suoi capelli sembravano di un bianco declinante in un tiepido giallo. La ammirò per l'intero pomeriggio. La sua morbida carnagione bianca si trasformava in un qualcosa simile alle bistecche di maiale messe a rosolare sulla griglia. Pensò: che coraggio! Domani ritorno per vedere se si ripresenta in spiaggia. Era attratto da quella bellezza nordica, dai suoi seni rosati e dal pube pallido e depilato. La paragonò a una dea vichinga. Indugiò a bagnarsi nelle calme acque del desiderio. Sì, la desiderava, in quell'apatia del giorno, ma non fece nulla, non tentò un approccio, si lasciò trascinare da morbosi pensieri, osservandola da lontano. Lei non raggiunse i suoi occhi azzurri e i capelli castano riccioluti. Se ne stava a friggere al sole, volgendo lo sguardo all'orizzonte, di tanto in tanto. Michele rimase in spiaggia finché la ragazza decise di andarsene, stremata da tanto calore. La sua pelle, inizialmente candida, si era trasformata in un rosso indefinito che stonava con la capigliatura bionda. La guardò alzarsi con grazia, infilare l'asciugamano nello zaino, indossare i grandi occhiali scuri e il cappello di paglia. Nuda con addosso soltanto le scarpe da ginnastica, la ragazza abbandonò la spiaggia per imboccare un sentiero che portava un boschetto verso il campeggio. La seguì con lo sguardo, fissò le sue natiche sode muoversi a ritmo, la schiena flessuosa e perfetta, la naturale curvatura della colonna vertebrale. L'ammirò fino all'ultimo istante, immaginandola distesa al suo fianco, ignara di tanta bramosia, ma vicina a lui in modo da sentire l'odore del suo sesso. Erano rimasti gli alberi, ma lui la vedeva ancora attraverso i pensieri colmi di desiderio. Si gettò nell'acqua fresca per lenire quel cruccio e ritrovare nuovamente la pace che conosceva prima d'arrivare in spiaggia. La sera, di solito, restava a casa, disteso sul letto, inerme a contemplare il mare oltre la finestra della sua camera. Vedeva lo specchio d'acqua scurirsi all'imbrunire, finché la luna ricreava una nuova magia. Gli piaceva la notte, si abbandonava a lei meditando sul senso del vivere, sulla sua sofferenza controllata da tempo da una pastiglia giornaliera. Pensava spesso di interrompere la terapia, però temeva il peggio, perché quando aveva provato a farlo, convinto di essere guarito, il pensiero oscuro della morte lo aveva raggiunto da lì a qualche giorno. Aveva lottato contro gli effetti causati dall'astinenza, continui giramenti di testa, senso di nausea, paure immotivate e insonnia. Il pensiero di portare fino alla sua inutile esistenza predominava. Lo avvolgeva soprattutto di notte, come un boa attorcigliato pronto a stringerlo definitivamente. Dopo una settimana di indicibile malessere, vissuto in solitudine, aveva deciso di riprendere l'assunzione dell'antidepressivo. In 2 giorni ritrovò la pace stimolata chimicamente. Il paese non nascondeva più pericoli. A ogni viottolo era ritornato bello e solare e si respirava la felicità della natura e del vivere tra gente semplice. Ecco cosa temeva: di compiere un gesto insano. I genitori non conoscevano il suo vero stato psichico, diversamente non l'avrebbero mai lasciato solo. La paura della morte costituiva il suo segreto, non l'avrebbe rivelato a nessuno. La luna si specchiava sul mare calmo, Michele vegliava, le immagini della ragazza tedesca gli tenevano compagnia. Il suo corpo latteo si muoveva nella sua mente, ballava una danza sensuale solo per lui. Il racconto non finisce qui, ovviamente mi sono fermato per motivi di tempo. Ringrazio particolarmente Pietro Pancamo per l'intervista e tutti gli amici di Radio Big World. Arrivederci.